sola, ma vi sparo tutti in testa. Teacher, see me, I'm a destinator, I'm a frustrator about life, about people cheating. This is my weapon, my war, my freedom word. I can switch everything, I can dream everything in my war. Mentally, visionary, picture in my head, visionary. E tu non puoi dire un cazzo, mi sono rimasto un bravo ragazzo. Questa è la vita che ho fatto. Sui miei piedi resisto.